stai anche a sentire. Giorni sono giorni che sono solo giorni. Giorni go-go. Sono giorni in cui vorresti stare solo a guardare. Sono giorni in cui diresti che il resto non è male. Saranno solo giorni, ma fanno il mio tempo. Saranno solo momenti, ma sono anche tanti. Sono giorni che restano sospesi, momenti lasciati illesi, agli ultimi ancora illusi, che pur per quanto si fa si sa che si stava su una giostra che gira, e a chi tira si lascia l'ultima lira. Se avanza in questa danza c'è anche la speranza, per chi ancora ha da portare pazienza, pazienta un attimo, che dopo attimo è la tua vita che sarà andata sprecata. Ma pensa che figata, beh, stai alla tua finestra, il mondo intorno gira come su una giostra, magari a chi guarda sembra pure divertente, ma pensa a starci sopra, a remar controcorrente. Non resta che la pazienza per una falsa speranza, per una falsa credenza, come quando anni fa qualcuno disse va tutto bene, per una falsa credenza, ora ancora ci crede, ma bene non va, lo sa, ora ancora ci crede, ma vede, con occhi stanchi, sa chi lo ha tradito, sa di chi era l'invito, del primo che se n'è andato, sa che quanto è stato, ora è solo un sogno, rimasto in un cassetto chiuso, ora illuso, ora sa che era un abuso, sa che qualcuno era troppo preso per pensare a lui, l'avresti detto mai che toccava proprio a noi, eppure l'avresti detto proprio te, sai, pensi a quanto stai, a quanto stai, a come stai, a quando e come dove, poi ci stai, ti guardi altrove e trovi speranze buone, nuove, buona la pazienza, l'ultima speranza, il mondo intorno ancora gira, si trascina la vita tua, la finestra è sempre la stessa, solo che ora fuori la luce è diversa, un po' smorta, lasciata affievolirsi come il fuoco non alimentato, a cui tanto tu proprio hai dato, ma dai calore a cui non hai mai ricevuto. Restano giorni in cui davanti, momenti avanti fatti sotto, il tempo ancora poco, la giostra gira anche senza te, immorale stare a pensare di potersi fermare, vale la pena provare, tanto può valere, lasciare quanto stare, ti pare nuova la situazione, ti vedi alla stazione, biglietto in mano, da lontano il treno ed un solo binario, due le scelte, salire o stare, una nuova vita, prendere o lasciare, tempo non c'è, non c'è mai stato, in fondo è relativo, in fondo vivo perché ho scelto io, vivo io, sbaglio io, ma almeno sono io.